grido del mare luci e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue tinte e vene. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto scioglie il sangue di te vene. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio.